30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Lunedì 27 dicembre è iniziata la nuova spedizione dell'alpinista bergamasco Simone Moro tra le vette del Karakorum. Dopo gli 8.000 scalati negli ultimi 15 anni, rigorosamente in stile alpino, prosegue il tentativo di conquistare i giganti dell'Asia nel pieno dell'inverno. Dopo il Makalu e il Shishapagma, Moro tenta nei prossimi giorni il Gagenbrum 2, 8.035 metri mai arrampicato nella stagione invernale. Con Simone ci sono due compagni d'avventura e di spedizione, il kazako Denis Urupko e il canadese Corey Richards. Ancora buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Come avete sentito, oggi torniamo a seguire un alpinista italiano, un amico di Radio 24 che nel corso degli ultimi 10 anni di fatto abbiamo raggiunto nelle grandi vette dell'Himalaya e del Karakorum, i due massicci giganti appunto nel cuore dell'Asia. Lo raggiungiamo immediatamente, questa volta dunque Karakorum in Pakistan. Innanzitutto buonasera Simone. Buonasera, grazie di questa telefonata. Allora, innanzitutto, dove sei, dove comincia questa nuova avventura? In questo momento mi trovo a Skardu. Skardu è una cittadina nel nord del Pakistan, situata a circa 2200 metri di quota. È la cittadina da cui sono partite tutte le spedizioni, sì, dagli anni 40 e 50, anche la spedizione di Desio partì da qui. Oggi Skardu è servita anche da un aeroporto dove possono atterrare anche degli aerei importanti, quindi dei Boeing e degli Airbus, e da qui partirà anche la logistica più costosa della nostra spedizione, perché in maniera classica le spedizioni si muovono da qui in jeep per una giornata e poi in 7 giorni a piedi. Data la stagione è impossibile, impensabile cercare di affidare tutti i carichi della spedizione ai portatori locali, perché anche se equipaggiati con materiali idonei, qui che detta le condizioni è il clima e la situazione, e camminare 7 giorni, cioè fino ai 5200 metri del campo base in inverno, è veramente una cosa inumana. Ecco, dunque, inverno pieno, ovviamente la stagione è come la nostra, siamo nello stesso emisfero, ma siamo a quota, l'hai accennato, il campo base è già oltre 5.000 metri. Allora, dacci un'idea proprio del clima, del contesto anche meteorologico che ti circonda. Come è quasi una normalità, date le temperature rigide dell'inverno, qui non è che ci sono delle copiose nevicate. Capitano, ma molto raramente. Io spero che quest'anno non capitino, perché altrimenti bloccano tutto e tutti. Il problema sono le temperature, il freddo e il vento. In questa cittadina, che penso abbia sui 10.000 abitanti, compresi un po' tutti i villaggi qui attorno, ecco, le temperature normalmente sono intorno ai meno 10 gradi, di notte poi scendono anche di più. Oggi è nuvoloso, quindi si sta meglio, anch'io qui fuori sulla terrazza del posto in cui mi trovo posso stare con una giacca, chiamiamola, normale. E quindi il problema qui è veramente le temperature abbinate al vento. Al campo base ricordo che nel 2008, quindi parlo solo di 2 anni fa, al campo base del Broad Peak, che è una montagna di 8.000 metri vicina al Gagenbrum, avevo temperature che andavano tra i meno 17 e sono arrivate fino ai meno 52 durante la scalata. Ecco, vivere in questo range di temperature è ciò che rende tutto più difficile, più complicato. Faccio un esempio: da pulirsi, da andare al bagno, da cucinare, da qualsiasi cosa, anche lo stesso comunicare. Una batteria di un telefono satellitare che tengo adesso io nella mia mano, se normalmente può durare una giornata in stand-by o qualche ora di comunicazione, ecco, durerà il tempo di questa intervista, e poi dopodiché sarà già completamente scarica. E caricarlo è un'altra cosa complicata, perché il generatore di corrente fa fatica a partire, perché sia l'alta quota, sia perché gli oli diventano viscosi e quindi la meccanica non funziona. I pannelli solari sono un buon aiuto, però in giornate come quella di oggi, che è nuvoloso, non rendono e non funzionano. Quindi è anche un po' la tecnologia applicata a questa spedizione che rende tutto più complicato, anche se però non ho ancora parlato della della salita. E ma infatti calata. ci arriviamo. Tra l'altro, Simone, Gaschenbrum, parola molto difficile questo nome, Gaschenbrum 2, noto anche come K4 mi risulta. Questo ci evoca, tu hai citato Desio poco fa, insomma siamo in quella zona, siamo il K2, non è molto distante, una zona proprio del pianeta direi alquanto complessa, siamo 6 sul confine tra il Pakistan e la Cina, una zona peraltro contesa tra due grandi paesi. Esattamente. Addirittura sempre il telefono satellitare in mano, che funziona anche come GPS, e quindi ti dice ogni volta dove sei, dove sono io in questo momento, si limita a esporre solo il nome del brand e non dice dove sei, perché è proprio una restricted area e anche disputed area, quindi una zona contesa, ed è anche questo una delle ragioni per cui il vicino di casa, l'India, che rivendica questi territori, provoca queste tensioni tra Pakistan e India e rappresentano oggi ancora zona di conflitto. Anzi, dirò di più, io sarò al campo base del Gaschenbrum 2, che è proprio sulla linea di confine, sul Siachen Glacier, quello per cui si sparano da qualche decennio, e quindi io sarò lì per scalare, ma lì ci sarà anche l'appostamento militare costante più alto della Terra. Significa che non ne parla mai nessuno, ma per 12 mesi l'anno, 365 giorni l'anno, c'è un appostamento militare fino a 6200 metri, dei militari che imbracciano il loro mitra, il loro fucile, dentro in una truna di neve, perché puntano dall'altra parte dove ci sono i nemici indiani e viceversa. E il mio campo base addirittura è un campo base vicinissimo, anzi è in una zona di guerra, e quindi i permessi che abbiamo dovuto ottenere non sono così facili, c'è tutta una fase investigativa che avviene all'interno del Ministero della Difesa e il Ministero del Turismo pakistano per capire chi è Simone Moro, chi è Denis Urubko, chi è Corey Rich, se è vero che vanno lì per scalare una montagna, perché ci vanno adesso. Quindi, già, perché ci andate adesso, Simone? Perché scegliere di andare in pieno inverno in un luogo che è inospitale anche d'estate? Non è per masochismo, anche perché spendere così tanti soldi per patire così tanto freddo e avere magari solo il 15% di possibilità di andare in cima, ecco, non lo fai solo per masochismo, o meglio, io non lo faccio per questo. Lo faccio perché l'alpinismo non mi piace legarlo solo alla performance, perché uno può fare una performance salendo la montagna dietro casa il più velocemente possibile, scalandola nella maniera più bizzarra, ma il motivo per cui sono qui è per riuscire a riassaporare due concetti fondamentali, che sono il concetto di esplorazione e il concetto di avventura. Non sono dei giochi dialettici, cioè non sono così degli slalom tra vocaboli per evocare un po' di enfasi. No, l'alpinismo è nato cercando di esplorare quegli angoli verticali del pianeta che sono sempre stati ritenuti impossibili. La storia ci ha insegnato che le montagne non erano quei draghi e quegli orchi disegnati nei dipinti del 700 e del 800, ma erano solo degli elementi naturali un po' ostili, difficili da raggiungere. È arrivata poi l'epoca dell'esplorazione, da Desio, l'epoca delle conquiste, dei 14.000, tra il 1950 e il 1964, tutti i 14.000 sono stati saliti. Poi è arrivato Messner, che ha dimostrato che era possibile salirle tutti e tutti senza ossigeno. Poi sono arrivati i polacchi, che hanno detto: non solo è possibile fare tutto questo, secondo noi è possibile farlo anche d'inverno. Li hanno un po' derisi, ebbene 7 su 14.000 se li sono portati a casa loro, bravissimi. Il primo occidentale che è riuscito a fare quello che i grandi polacchi avevano dimostrato di fare è colui che parla adesso al telefono, nel 2005, però allora c'era ancora un polacco. Nel 2009 risalgo il 9.000-8.000. Il Makalu, se non sbaglio, il 2009 Makalu, l'anno del Makalu. Esatto. E quella volta eravamo solo io e Denis Urubko, quindi la prima volta che non c'erano i polacchi. Ebbene, ora rimangono gli ultimi 5-8.000 da salire d'inverno. E sono tutti qui in Pakistan. K2, Broad Peak, Gaschenbrum 2, Gaschenbrum 1 e Nanga Parbat. Avevamo veramente l'imbarazzo della scelta, e queste mie ultime spedizioni invernali degli ultimi anni però hanno un po' rimotivato la comunità internazionale di alpinisti. Infatti quest'anno ci sono 4 spedizioni, una al Broad Peak, una al G1, una al Nanga Parbat, quindi mi rimaneva il K2 e il Gaschenbrum 2 se volevo essere da solo. E allora ho scelto il Gashamron 2 perché non, addirittura non aveva mai avuto nessun tentativo, cioè non c'è neppure un precedente, e mi piaceva questa cosa, e magari lasciando il K2 all'anno prossimo, anzi magari posso anche togliere il vocabolo magari, è pianificato per l'anno prossimo. Ah, quindi questa è già la notizia, è già pronto per il prossimo anno, il colossale K2. Allora Simone, questo K4, come adesso per comodità comincio a chiamare, anche perché, come dire, litigo un po' col nome Gashamron 2, perché raccontaci che montagna è, quale complessità vi troverete ad affrontare nei prossimi giorni. Allora, il Gashamron, che significa la montagna scintillante, il Gashamron sono addirittura sei, si trova in questa zona di confine tra Pakistan, India e Cina, e si chiama proprio montagna scintillante perché è quasi completamente coperta di ghiaccio e di neve, a parte la piramide sommitale di roccia, è veramente un mare lucente di neve e di ghiaccio. Ebbene, la parte più pericolosa è proprio la parte iniziale, la parte terminale del ghiacciaio, che è quella che si muove più velocemente e che quindi crea in maniera più rapida anche nuovi crepacci, il crollo dei seracchi, e quindi la prima parte è la parte per assurdo più pericolosa, quella che io temo di più di tutta la scalata. È una porzione di montagna che va tra i 5.200 e i 5.800 metri, e quindi è la parte iniziale. Per essere meno esposti a questi pericoli di crepacci, di seracchi, e quindi per essere anche più veloci possibili in questi 400 metri di dislivello iniziali, io, Denis e Cori abbiamo deciso di fare una fase di acclimatamento. Infatti noi siamo a Skardu oggi, reduci da una settimana di scalate su una montagna di 6.400 metri, la cui base è 2.000 metri, quindi un gigante, anche se è solo 6.400, sono 4.400 metri di dislivello dalla base che abbiamo salito. E tra l'altro ieri proprio è stato il giorno del tentativo alla vetta, ed c'erano delle condizioni veramente proibitive, perché c'erano 20 gradi sotto zero, ma un vento fortissimo, quindi la percezione era intorno ai 38-40 gradi sotto zero. A 100 metri dalla cima Cori non sentiva più le mani e i piedi, eravamo solo lì per acclimatarci, quindi ho detto fermi tutti, scendiamo, l'acclimatamento l'abbiamo fatto. Il Gashamron quindi ci obbligherà a attraversare questa zona iniziale, che noi adesso potremo attraversare molto più velocemente, perché arriveremo già acclimatati al campo base. E quindi anziché arrancare a 30 passi alla volta nella fase iniziale, o 40 passi alla volta nella fase iniziale, potremo andare spediti. Questa è stata una tattica importante. Ecco Simone, che cosa significa arrampicare? Voglio dire, che differenza di temperatura c'è a quote così alte, a 6.000-7.000 metri, tra estate e inverno? Perché è proprio una domanda, come dire, da chi ovviamente frequenta quote molto più basse. Sono abissali. Sì, perché in estate tu puoi trovare delle condizioni invernali, cioè puoi trovare quella giornata che fa brutto tempo, un freddo boia e il vento. Ma avere una giornata sfavorevole è come avere il mal di testa per un'ora o averlo per un anno intero, ok? Se l'ha avuto per un'ora, no, quasi non lo ricordi neanche. Se ce l'hai per un anno intero, te lo ricordi per sempre, perché hai fatto il giro di tutti gli ospedali. Non è la stessa cosa, se qui costantemente sei sferzato dal vento e dal freddo, dal vento e dal freddo. Quindi non è che a un certo punto dici, boh, vado a scaldarmi, entro nel rifugio, mi faccio la doccia o mi prendo un break. No, l'unica cosa calda è il sacco a pelo, che ti devi scaldare ancora tu. E quindi vivere magari 2 mesi o 3 mesi con i piedi che magari sono sempre freddi, quindi devi scaldarli mettendoli vicini al fornello, poi come li allontani fanno subito freddo, allora salti nel sacco a pelo, poi ti scappa la pipì, ti scappa magari qualcos'altro, vai fuori, c'è meno 30, quindi le condizioni sono dure. Questo non lo dubitavamo. Questo. Quindi scalare una montagna di 8.000 metri, quindi andare alle quote di volo di un jumbo, per scelta, in quelle condizioni, e quindi cercare di arrivare in cima a una montagna in quelle condizioni è veramente una frontiera difficile da valicare, anche perché i pericoli più grandi sono quelli dei congelamenti e sono anche quelli dell'isolamento. Infatti all'inizio dell'intervista io dicevo che la logistica costosa ci obbligherà a prendere un elicottero che ho dovuto affittare dai militari. Oggi pomeriggio ho incontro ancora con un colonnello e un maggiore, il fatto che io sia pilota di elicottero mi sta avvantaggiando, mi vedono già più come un collega e non come un rompiscatole turista che vuol farsi portare al campo base, e questo spero che si tramuti domani sia in puntualità che in efficienza nel trasporto dei nostri carichi. Ecco, quanti chili dovete portare? Quanti chilogrammi dovete portare al campo base? Una tonnellata, 1000-1200 chili. Sì, perché più della metà sono solo kerosene, carburante. Perché certo. Arrivando a campo base, diversamente dall'estate, non è che c'è il ruscello che nasce dal ghiacciaio, vado a prendere l'acqua, mi lavo, cucino. No, devo prendere il ghiaccio e devo scioglierlo, perché non esiste acqua. Certo. Allora, per sciogliere acqua per tre persone, più altre tre, per far di tutto, quindi dal bere, quindi bisogna bere 4-5 litri al giorno a testa, moltiplicati per tutti i componenti. Per tutti i giorni, per i tre pasti al giorno, e poi ci si lava, e poi insomma per fare chiaro, quindi mezza tonnellata solo appunto di combustibile. Simone, torniamo alla montagna. Nel momento in cui sarà, diciamo, darai il semaforo verde, quanti giorni è previsto che rimaniate sulla montagna? Onestamente mi piacerebbe fare come ho fatto al Makalu, in tre giorni fare tutto. La fase di acclimatamento che abbiamo fatto in questi giorni e che ci ha visto anche ieri impegnati era anche basata sul dei test ai motori, chiamiamolo così. Volevo vedere quanto veloci riuscivamo ad essere, anche se avevamo neve da battere, e ho visto che i motori sono ben tarati. Mi piacerebbe in tre giorni far tutto, ossia dal campo base andare prima campo 1, campo 2, terzo giorno cima e scendere. Già ieri ho voluto fare il test, siamo partiti da 4.007, siamo andati a 6.000 e sono tornato a 2.000 lo stesso giorno, quindi abbiamo fatto 4.000 metri di dislivello in discesa e 1.500 in salita, quindi ieri ho voluto simulare la scalata. Ecco, mi piacerebbe stare sulla montagna non più di tre giorni. La velocità è determinante, insomma, nelle condizioni che ci hai descritto, meno si sta, meglio è per la spedizione, per la sicurezza, per gli imprevisti. Sì, anche perché le finestre di bel tempo qui sono rare, diversamente dall'estate, dove magari puoi avere una settimana, due settimane di fila di bel tempo. Qui ti massacra di vento e bufere per un sacco di giorni, poi viene fuori il bel tempo e tu pensi, ah buon, è arrivato il bello, e parti con la stessa tattica, hai già sbagliato. Qui il bel tempo si va a vedere e magari si mostra per un giorno o due e poi ritorna al brutto, e quindi tu in quel un giorno o due devi essere veramente come un leopardo dalle nevi che aspetta la guida, come la vedi saltagli addosso e a manetta. E così noi vogliamo fare, abbiamo fatto il Makalu, abbiamo fatto il Sisa Pagma. Penso sia la tecnica che più ti possa permettere di sognare un 8000 d'inverno. Speriamo che anche quest'anno sia la tecnica giusta, la preparazione c'è, la logistica è stata impostata proprio su questa tattica. Non voglio illudere nessuno, perché comunque rimangono 10-15% le probabilità di riuscire ad arrivare in cima a un 8000 d'inverno, basate sulle statistiche di tutti i tentativi mai avvenuti dal 1976 ad oggi sui vari 8000. Noi facciamo parte anche noi della statistica e quindi ne siamo ben consapevoli. Speriamo che questo nuovo modo di tentare gli 8000 d'inverno, quindi preparati ma veloci, possa essere la carta che permetta non solo a me, ma anche alle altre spedizioni e a chi vorrà venire di poter salire questi 8000 d'inverno. Simone, tu hai imparato nel corso degli anni, tuo malgrado anche, perché insomma chi magari non ti conosce ti sente col tuo formidabile entusiasmo di sempre, che si lancia verso nuove avventure, ma hai anche in passato dei momenti tragici come l'ascesa dell'Annapurna del 97 che finì appunto in tragedia per te e i tuoi compagni, come dei momenti in cui sei stato costretto a dire torniamo indietro, magari anche molto vicino alla vetta. Esatto, quella dell'Annapurna del Natale del 1997, che ho descritto anche poi nel mio libro, è stato il momento più difficile della mia vita di sicuro. Siamo partiti in tre, sono tornato a casa da solo e quindi c'è stata una tragedia grande che ho dovuto vivere e poi ho dovuto anche così superare. La rinuncia è forse una delle mie migliori abilità. Non ho mai visto nella rinuncia, in questo caso chiamiamola così, sportiva, un disvalore o un qualcosa di cui uno si deve vergognare. Non, perché La rinuncia viene catalogata in un giorno in un articolo di giornale dove scrivono fallita la spedizione di punto. Il giorno dopo c'è già un'altra notizia, ma la tua vita invece continua. Mi è capitato di rinunciare anche a 90 metri dalla cima. Dov'è successo? A 160 metri, a 91 metri all'Annapurna proprio. All'Annapurna, un colosso. Ho riprovato e a 91 metri dalla cima non sentivo più le dita dei piedi e non ho voluto far pagare anche già potenzialmente, perché non ero sicuro, la perdita delle falangi, delle dita dei piedi per arrivare in cima alla Napoli. Ecco, ma Simone, scusa, 91 metri, noi pensiamo alla distanza appunto di un blocco, di un palazzo, intanto sono verticali, quanto un'ora. Tempo voleva dire? Un'ora. Un'ora andare un'ora. E ritornare, e a quel punto giocarsi... Sì. Anche perché un'ora andare, poi arrivi in cima, non è che stai in cima un secondo, almeno 5 minuti tra fare una foto, tirare il fiato, guardarti in giro e poi devi ancora scendere, quindi sentire freddo e spingere questa sensazione di freddo limite per 2 ore ancora, magari un'ora perché sali, un quarto d'ora fare le foto e ritorni a quel punto e in più tutta la discesa, significa magari perdere o non perdere le dita dei piedi. E quindi io ho preferito non perderle. È chiaro che vieni a casa e vieni subito attaccato, magari da chi sta solo aspettando quel motivo per attaccarti, ma se sono vivo dopo 44 spedizioni è perché sono sempre stato disponibile a mettercela tutta e sono disponibile a farlo anche questa volta, ma non ad avere un'ambizione cieca e sorda, cioè cieca e sorda di fronte al buon senso, che rimane così l'indicatore che io voglio sempre seguire come indicatore in primis. Poi le ambizioni e tutto il resto fanno parte della vita e fanno parte anche di Simone Moro, però l'indicatore del buon senso è quello che per il momento mi ha permesso di essere vivo dopo 44 spedizioni, essere padre di famiglia, poi ho anche un bimbo di 1 anno e ho tutte le voglie fuorché quella di farmi del male. Ecco, soprattutto perché tutto questo non ti hai mai impedito di collezionare questa serie di successi che si chiamano Lhotse, Shishapagma, Everest, Choyu, Broad Peak, Shishapagma invernale, prima appunto assoluta, Everest traversata sud nord con ascensione in velocità, Makalu prima invernale, Everest 2010, insomma direi che hai abbastanza, come si diceva una volta, medaglie sul petto per non dover dimostrare le ragioni per cui, come hai detto, rinunciare non è più appunto un fallimento, ma forse è anche una prova della tua maturità professionale. Allora, ancora un paio di battute, Simone. Ora siamo nella fase 6, nella fase finale dei preparativi. Quando pensi che potrà essere lanciato di fatto il tentativo a questo grande 8000 del Karakorum? Allora, la logistica sulla carta prevede che dopo domani, il 10, vogliamo al campo base del Gashenbrum 2. Ci vorranno un paio di giorni per allestire il campo, diventare amici con la postazione militare che sarà lì, che cercherà di capire chi siamo, cosa facciamo. Dopodiché inizieremo ad andare sulla montagna. L'idea è di andare a dormire a 6400 metri tra il colle che divide il Gashenbrum 2 e il Gashenbrum 1. Quindi senza neppure toccare la vera via di salita, se non la prima parte, quella dell'attraversamento del ghiacciaio del Gashenbrum 2. Lo voglio vedere da una posizione ancora più lontana per capire se l'innevamento è quello che io prevedo, scarso e quindi condizioni sicure. E in più dormire a 6400 metri non nascondo che potrebbe già permettermi di fare un primo tentativo serio, perlomeno molto in alto, diciamolo così, alla prima finestra di bel tempo, perché con la salita che abbiamo fatto ieri di acclimatamento, con questa notte che prevedo, o magari 2 notti a 6400 metri, vuol dire che tra quel punto e la vetta mi separano 1650 metri circa di dislivello. A livello muscolare non è assolutamente un problema, a livello di acclimatamento è abbastanza limite, perché passare da una notte a 6.4 a una cima a 8.000 potrebbe essere limite, però io e Dennis l'abbiamo già fatto al Makalu, addirittura su una montagna di 400 metri più alta. E quindi mi piace pensare che la prima finestra di bel tempo potrebbe essere quella buona. Ora dirti quando arriverà questo... Beh, ce lo farai sapere ovviamente. Chiaro, avete un canale preferenziale da sempre, da quel famoso 2002 quando parlammo per la prima volta dalla vetta dell'Everest, stiamo quasi per festeggiare i 10 anni di quella collaborazione, quindi quando sta arrivando il momento, siccome avrò il telefono satellitare con me, una telefonata a Radio 24 e i suoi radioascoltatori, la faccio di sicuro. Grazie Simone. Allora, naturalmente da parte di tutti noi in bocca al lupo, noi continueremo a seguirti, a te, a Denis Urupko, al canadese Corey Richard, lo ricordo che sono i tuoi compagni di questa avventura. Noi ci risentiamo presto e naturalmente un grande abbraccio, un grande saluto da parte di tutti noi, sono certo da tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie mille e estendo l'abbraccio dello contraccambio. Grazie dunque a Simone Moro, sicuramente continueremo a seguirlo nelle sue avventure tra l'Himalaya, in questo caso invece il Karakorum, quindi la grande regione tra il Pakistan, la Cina e l'India, dove sono raccolti intorno, diciamo, al K2, alla cosiddetta montagna degli italiani, alcune delle più formidabili, più imponenti vette del nostro pianeta. Questo appuntamento di 30 minuti in cronaca finisce qui. Naturalmente vi ricordo, come sempre, 30minuti@radio24.it se volete mandare delle mail, e radio24.it per sentire e risentire questa, come tutte le trasmissioni di Radio 24. Un saluto da Gigi Donelli, un ottimo fine settimana a tutti voi.